sarai il più brutto fra gli incubi che avrei. Fai un po' senso, ma poi con il tempo vedrai, mi abituerei. La tua voce però ha un colore sinistro, ti dirò, e poi spiegami dai cosa sono quei peli neri che sul corpo hai. Ma ritorniamo a noi, mi presto al gioco, semmai comincerò col dirti amore mio. Il resto è facile, con calma scoprirò tutti i misteri tuoi, l'origine dei nei, i vizi che tu hai, le tue vertigini. Spogliati, dai su, sbattiamoci, tanto per conoscerci di più. Dai su, perquisiamoci sulle reti morbide, con un dolce su e giù. Dai, noleggiamoci, sorvoliamoci così, dopo poi alterniamoci. Provo io e poi provi anche tu. Maledetto che sei, quanta voglia di sbattermi che hai. Io non dico di no,